Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. In Cile oltre 700 morti e 2 milioni di sfollati, disperso un insegnante italiano. I giudici sull'inchiesta Mediaset, no al legittimo impedimento per Berlusconi. Caos regionali nel Lazio, il Quirinale precisa, decidono i giudici denunciati radicali per violenza privata. Stranieri in corteo in 60 piazze, 1 marzo, 24 ore senza di noi. E buona giornata dalla redazione da Anarita D'Ambrosio. Dunque in primo piano in Cile, dove ci sono ancora scosse e paura. Gli sfollati sono oltre 2 milioni e le vittime non sono ancora accertate. Il numero di 700 è stato precisato questa mattina, è un numero purtroppo destinato a salire. Tutti gli aggiornamenti in diretta con Laura Bettini. Laura. Buongiorno, l'esercito cileno è stato dispiegato nelle zone colpite dal terremoto di sabato per assistere nella distribuzione di generi di sopravvivenza, ma soprattutto per prevenire altri episodi di saccheggio. Ieri per questo stesso motivo era stato imposto anche il coprifuoco a Concepción, la seconda città del paese e la più colpita dal sisma. Qui non è ancora ripresa la fornitura di acqua ed energia elettrica, centinaia sono i dispersi e tra di loro c'è anche un italiano, Federico Albertini, un insegnante di Ascoli Piceno che da 3 anni si era trasferito in Cile e lavorava presso la scuola italiana. Ogni ora che passa abbiamo notizie peggiori di prima, ha detto intanto oggi il ministro dell'interno cileno, Pérez Yoma. Il bilancio ufficiale è di 711 morti, ma è destinato ad aggravarsi perché oltre alle vittime del sisma ci sono anche quelle dello tsunami che ha investito le coste cilene. Ieri il presidente uscente del Cile, Michelle Bachelet, ha proclamato lo stato di emergenza eccezionale nelle regioni di Maule e Biobío. A Santiago del Cile oggi arriverà il segretario di Stato americano Hillary Clinton e intanto la comunità internazionale si mobilita per l'invio di aiuti al paese e aspetta le indicazioni delle autorità per modi e tempi dell'intervento. Per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie Laura, e noi ci spostiamo a Milano per il processo Mediaset, no al legittimo impedimento per Berlusconi, impegnato oggi nel Consiglio dei Ministri. In diretta Raffaella Calandra. Raffaella. Nessun nuovo rinvio, questo Consiglio dei Ministri per la Corte non è un legittimo impedimento, per questo l'udienza va avanti e sullo sfondo si profila l'ipotesi di un conflitto tra poteri. Al processo Mediaset, in cui è imputato tra gli altri anche il Premier, i giudici della prima sezione penale di Milano non hanno accolto la richiesta dei difensori di Silvio Berlusconi di legittimo impedimento, vista la coincidenza col Consiglio dei Ministri. Nulla è stato dedotto sulla necessità e inderogabilità di fissare per oggi la riunione dell'esecutivo, scrive il presidente Eduardo Davossa nell'ordinanza, in cui si ricorda come questa udienza sia stata concordata con la difesa tempo fa e fissata proprio sulla base del calendario del Premier, ben prima della convocazione dei ministri decisa il 24 febbraio. Un nuovo rinvio dopo 3 date saltate per impegni istituzionali, ricorda la Corte, sarebbe uno svilimento della funzione giudiziaria. Così dunque Silvio Berlusconi diventa assente ingiustificato e il processo sui presunti fondi neri va avanti con la convocazione di testimoni citati dall'imputato a grama. Fuori però dall'aula scoppiano le polemiche per i legali del Premier. Infatti la Corte Costituzionale, laddove parla della necessità di conciliare le esigenze della giustizia e quelle di imputati con ruoli istituzionali, non vieta di considerare legittimi gli impegni sopravvenuti in un secondo momento. Credo che la Presidenza del Consiglio, riflette l'avvocato Piero Longo, non possa esimersi dal sollevare un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, e resta sempre anche l'ipotesi di uno stralcio della posizione di Berlusconi rispetto agli altri imputati. È già successo in altri processi, ad esempio quello SME. E per ora è tutto. Grazie Raffaella. Di cosa si deve parlare in Consiglio dei Ministri? Soprattutto si deve discutere del DDL anticorruzione. In diretta Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno. 10 giorni di dibattito all'interno della maggioranza per arrivare al testo che viene esaminato oggi qui in Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, una discussione accesa tra i più intransigenti dei gelsiniani e più garantisti di ex di Forza Italia. Il disegno di legge anticorruzione è composto da 11 articoli, prevede prevenzione, controlli nella pubblica amministrazione, incandidabilità e sanzioni penali. In particolare previsto aumento di pena per 11 reati sotto 10 anni, tra questi peculato, malversazione, corruzione corruzione per atti d'ufficio e frode nelle pubbliche forniture, aggravanti per il pubblico ufficiale che compie atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione con pena maggiorata di un terzo. Infine non si può candidare né avere incarichi di governo o enti pubblici chi è rimosso da governatore regionale per interdizione dei pubblici uffici. E per il momento qui da Palazzo Chigi è tutto, per studio. Grazie Elisabetta, e c'è un'ultima ora che arriva proprio da Roma che riguarda la par condicio e sicuramente susciterà polemiche. Il consiglio di amministrazione della RAI a maggioranza ha deciso lo stop ai talk show per un mese fino al voto delle regionali. L'altra notizia in primo piano della capitale è sicuramente l'esclusione della lista PDL a Roma per le regionali. La candidata Polverini aveva chiesto l'intervento del capo dello Stato, il Quirinale ha risposto che la decisione spetta ai giudici. E intanto è stata presentata oggi una denuncia, querela contro alcuni militanti dei radicali per violenza privata e contro i componenti dell'ufficio centrale per abuso d'ufficio. Il PDL ha presentato questa denuncia insieme al ricorso all'ufficio centrale presso la Corte d'Appello. Insomma, una situazione ancora molto confusa. Le conseguenze di un'eventuale esclusione, ne parliamo in diretta con Stefano Folli, che ringraziamo. Stefano. Eccomi qua, buongiorno. Allora, situazione ancora molto caotica, l'abbiamo sentito, ma secondo te quali potrebbero essere gli scenari? Che cosa potrebbe succedere? O è una bolla di sapone? No, non è una bolla di sapone, secondo me è una questione abbastanza difficile da districare, con elementi anche grotteschi e che lasciano anche un po', insomma, l'amaro in bocca ai militanti del Partito della Libertà, che si dimostra essere ancora, diciamo, lungi dall'avere un'identità compiuta come partito politico. E perché ci sono tanti retroscene intorno a questa mancata presentazione, non è soltanto il fatto di uno che è andato a mangiare un panino nel momento sbagliato. Però come uscirne? Beh, è difficile, a meno che non ci sia una sanatoria, però la sanatoria richiede una convergenza di tutte le forze, cioè non può essere la maggioranza che fa la sanatoria contro il punto di vista dell'opposizione, evidentemente, dovrebbe essere l'opposizione che con grande fair play permette il reintegro di questa lista. Però permettere il reintegro vorrebbe dire rinunciare ad affermare un principio di legalità, insomma, perché c'è una legge e deve essere rispettata, come è stata rispettata anche dagli altri partiti che concorrono a Roma. Quindi a me la sanatoria sembra difficile, assurdo l'intervento del capo dello Stato, come ormai mi sembra evidente. Quindi come uscirne? Non so, è difficile. Le conseguenze sono che naturalmente il Popolo della Libertà, il centrodestra, si presenta alle elezioni in condizioni di grande debolezza a Roma, perché ci sono delle altre liste collegate alla Polverini, però la mancanza del simbolo del partito più forte indubbiamente avrà un peso. Però non mi sembra che si possa soltanto accusare la burocrazia, come sta facendo in queste ore il centrodestra. Dovrebbero interrogarsi davvero su alcune carenze politiche piuttosto serie che ci sono evidentemente in quel partito in questo momento. Stefano, e poi sulle regionali è piombata questa notizia proprio di poco fa, piombata, insomma, già lo sapevamo, sulla par condicio. Il consiglio di amministrazione della RAI ha confermato lo stop ai talk show per un mese fino al voto. Secondo te anche questo avrà delle conseguenze, no? Ma sì, ma io sono contrario naturalmente a questo tipo di imposizioni, mi sembra un'assurdità, mi sembra che sia un modo per troncare il dibattito, per impoverirlo, per allontanare i cittadini dal momento elettorale. Mi sembra un avvitarsi sullo stesso errore, ma questo ormai si sapeva che sarebbe andato a finire così. Non mi sembra, insomma, che questa campagna elettorale per un motivo o per l'altro sia cominciata proprio con il piede giusto. Non vorrei che alla fine ci trovassimo a discutere per l'ennesima volta di una rissa continua, di una campagna che ha oscurato i problemi, che lascia delle macerie. Insomma, speriamo di no, però le premesse non sono buone. Grazie a Stefano Folli, speriamo di no davvero. Intanto, nel nostro sondaggio di oggi in bianco nero, noi vi chiedevamo, dopo il caso di Girolamo che oggi rassegnerà le dimissioni, deve cambiare il meccanismo del voto all'estero? Sentiamo qual è stato l'esito del sondaggio. Secondo il 96% di chi ha votato sul sito di Radio 24, l'attuale legge che regola il voto degli italiani all'estero va modificata. Ha risposto no un esiguo 4%. Nella trasmissione sono emerse perplessità non tanto per il diritto di voto garantito garantito a chi ha la cittadinanza, ma per le modalità per posta che non garantiscono la segretezza e per il fatto di eleggere, caso unico nel mondo, deputati e senatori, 18 in tutto, che risiedono altrove. Aaron Mains, corrispondente del Wall Street Journal, ha votato da Milano per le elezioni americane. Ho dovuto registrarmi come residente all'estero, fornire un indirizzo al quale veniva e verrà anche in futuro spedito la scheda. Di solito il cittadino che deve portare la scheda direttamente al consolato. Gli altri dunque votano da fuori confine, ma in base alle liste elettorali del distretto di provenienza e non creando, come nel caso italiano, veri e propri collegi elettorali all'estero. Irene Zerbini, GR24, Il Sole 24 Ore. Disoccupazione in crescita, crollo del PIL nel 2009, i dati sulla disoccupazione preoccupano. A gennaio in cerca di occupazione oltre 2 milioni di persone. E poi c'è il dato del PIL giù del 5%, mai così male dal 1971. Con Dino Pesole commentiamo questi dati sul prodotto interno lordo. Nell'anno orribile della peggiore crisi finanziaria globale del dopoguerra, la caduta del nostro prodotto interno lordo attorno al 5% era largamente prevista e attesa. Il governo solo un mese fa, nell'aggiornamento del programma di stabilità inviato a Bruxelles, aveva previsto una contrazione del 4,8%. Ora il punto è: come si fa a tornare a crescere, soprattutto a ritmi sostenuti e stabili nel tempo? Per il 2010 non andremo oltre una crescita dell'1%, troppo poco, ma nel primo anno del dopocrisi sarà ben difficile fare di più. Occorre allora un progetto di politica economica che guardi al medio periodo. Occorre prevedere un robusto rilancio della domanda interna, anche attraverso la leva fiscale. Impresa non impossibile se si condurrà una seria lotta all'evasione fiscale. Il tutto vigilando con grande attenzione sui conti pubblici. Il deficit è al 5% del PIL, ma la preoccupazione è sul debito. Quest'anno sono in programma emissioni di titoli per oltre 400 miliardi. Dunque massima cautela, come insegna il caso della Grecia. E così dunque i dati sul PIL, ma c'è anche la disoccupazione, lo abbiamo detto, a gennaio è giunta all'8,6%, in crescita dall'8,5% dello scorso dicembre. Il numero delle persone in cerca di occupazione è risultato pari a 2.144.000. Molti sono giovani, oggi questi dati sono stati commentati anche dal ministro Meloni. Ci colleghiamo in diretta con Chiara Di Michele. Sì, buongiorno. Il lavoro insieme alla casa e alla famiglia è una delle principali preoccupazioni dei giovani. Sono questi tre temi messi in evidenza dal movimento giovanile del PDL e la Giovane Italia in occasione della presentazione della campagna Non ci basta mai. L'iniziativa è stata presentata questa mattina dal ministro della gioventù Giorgia Meloni, che ha colto l'occasione per commentare i dati sulla disoccupazione diffusi dall'Istat. Sul mondo del lavoro il governo si è impegnato molto, ha sottolineato il ministro. Sentiamo. Il governo si è da questo punto di vista estremamente impegnato. Io ricordo che noi abbiamo mobilitato una cosa come 34 miliardi di euro in ammortizzatori sociali per chi rischiava di perdere il lavoro, che abbiamo allargato gli ammortizzatori sociali ad alcune categorie del lavoro cosiddetto precario, quindi facendo un ulteriore sforzo nei confronti di tanti giovani. Abbiamo investito e stiamo investendo molto sulla cultura d'impresa, stiamo investendo molto sul talento giovanile. Crediamo che ne vedremo i risultati in un tempo minimo, ovviamente facendo i conti con una realtà che non determiniamo unicamente noi. Ecco, queste le parole del ministro della gioventù Giorgia Meloni. Da Roma è tutto, restituisco la linea allo studio. Le 13:18, ancora una buona giornata dalla redazione, da Anna Rita D'Ambrosio. Nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato del Cile, dove le vittime sono oltre 700 e 2 milioni gli sfollati, disperso anche un insegnante italiano. Abbiamo parlato dei giudici che oggi si sono pronunciati sull'inchiesta Mediaset a Milano, no al legittimo impedimento per Berlusconi. E poi abbiamo parlato del caos per le elezioni regionali nel Lazio, il Quirinale precisa decidono i giudici e dunque il non può intervenire, sono stati denunciati radicali per violenza privata. E adesso, come detto nella seconda parte, tra pochissimo parliamo dello sciopero degli immigrati in tutta Italia, ma c'è un'ultima ora, ricoverato d'urgenza il presidente nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, da 33 giorni in sciopero della fame contro la censura sui temi ambientali da parte dei programmi televisivi e contro la violazione del pluralismo politico. Bonelli è in un ospedale del litorale romano, è intervenuto anche il presidente Napolitano che lancia un appello: non prosegua, scrive Napolitano in una nota, in una così estrema forma di protesta. Adesso, come detto, parliamo dello sciopero degli immigrati. Nel pomeriggio i cortei in tutta Italia, stamani però già ci sono state delle manifestazioni. Ci colleghiamo subito con Roma, con Maria Chiara Grandis. Sì, buongiorno, molte manifestazioni anche nella mattinata, un convegno a Roma, lezioni di clandestinità, è una conferenza contro il razzismo e per i diritti dei lavoratori stranieri organizzato in piazza Montecitorio dagli studenti delle scuole medie e dell'università nel giorno dello sciopero degli immigrati, che oggi in Italia sono quasi 5 milioni. Al convegno giovani, precari, stranieri e disoccupati che vogliono in questo modo mettere in comune le loro esperienze, rendere visibile chi non lo è, come anche i lavoratori di Rosarno. E questa è solo una delle tante iniziative di questa mattina a Roma in occasione della mobilità degli immigrati in Italia. Al parco di Colle Oppio, ad esempio, Legambiente ha organizzato un incontro fra studenti e rifugiati politici provenienti dall'Afghanistan, dall'Iraq, ma anche dall'Africa, e questo per raccontare la loro esperienza. Sentiamo allora perché oggi sono scesi in piazza. Dall'Stato italiano, poi abbiamo bisogno di magari più, di dare più opportunità di integrazione, perché cioè da soli non possiamo fare niente, perché qua ci stanno i ragazzi, i rifugiati, riconosciuti, con permesso di soggiorno, di asilo politico, e stanno qua, dormono per strada, che magari non c'è la possibilità di andare alla scuola. Chiedo alle persone di non, come dirlo, non avere paura del diverso, no? Che essere diverso non è sinonimo di cattivo. Una protesta che, come ricordavate, continuerà nel pomeriggio. Alle 17 da Porta Maggiore partirà il corteo che arriverà fino a Piazza Vittorio Emanuele per concludersi con un concerto organizzato dal Comitato Primo Marzo. Anche a Roma, come nelle altre piazze d'Italia, alle 18.30 saranno lanciati palloncini gialli. Il giallo è il colore scelto dai lavoratori stranieri per la manifestazione di oggi. E da Roma è tutto, linea a voi. Grazie Maria Chiara, e noi ci spostiamo a Milano, dove nel pomeriggio ci sarà il corteo, ma già in mattinata c'è stata una manifestazione davanti alla sede del comune. Stefano Totoro. Buongiorno, una manifestazione guidata dagli stessi sentimenti, le stesse paure, le stesse intenzioni che abbiamo appena ascoltato da Roma, e un migliaio di manifestanti hanno sfilato per un breve tratto del centro di Milano, manifestanti del popolo giallo, il colore scelto per rappresentare gli stranieri regolari e irregolari che lavorano in Italia e che chiedono più diritti, chiedono il voto, la cittadinanza, il permesso di soggiorno, ma bisogna dire che di stranieri se ne sono visti pochi questa mattina a Milano, saranno stati circa il 10% dei manifestanti. Almeno qui il primo sciopero nazionale degli stranieri ha registrato una maggiore adesione di italiani. Solidarietà dei COBAS e di Rifondazione Comunista, ma gli stranieri forse hanno avuto paura di lasciare il posto di lavoro. Sentiamo alcune testimonianze raccolte. Ci sono tanti immigrati paurosi, perché dicono: se io lascio il posto di lavoro magari vengo licenziato, soprattutto quelli che lavorano in casa, i badanti, i golf, tutti sicuramente avranno detto: se io lascio qua oggi vengo licenziato. Quando mancano al lavoro le straniere, poi lo cacciano via, adesso che sono di paura che non sono venuti di qua. Dunque, come abbiamo sentito, avete detto anche da studio, ci sarà un corteo anche nel pomeriggio, ci sono anche altre iniziative in città a Milano, e per il momento vi restituisco la linea. Grazie Stefano. Un'ultima ora che arriva dal Consiglio dei Ministri, dove è stato approvato il DDL anticorruzione, sono stati nominati anche altri 4 nuovi sottosegretari. E intanto c'è allarme terrorismo dai servizi italiani, esiste il rischio che soggetti vicini all'ideologia salafita jihadista, impossibilitati a raggiungere i teatri di crisi, possano decidere azioni ostili sul nostro territorio. Si legge nella relazione 2009 dei servizi al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza. Spostiamo a Palermo, in corso i solenni funerali nella cattedrale dell'avvocato Fragalà. Le indagini proseguono. Un lungo applauso e poi campane a morto hanno accolto poco dopo mezzogiorno nella cattedrale di Palermo il feretro di Enzo Fragalà, l'avvocato galantuomo, il penalista barbaramente aggredito a bastonate martedì sera e morto venerdì dopo 3 giorni di agonia. Alle esequie, presiedute dall'arcivescovo di Palermo Paolo Romeo, davanti a migliaia di persone, presenti anche decine di avvocati con indosso la toga, ma anche il presidente del Senato Renato Schifani, quello della Camera Gianfranco Fini e il ministro Altero Matteoli. Nel corso dell'omelia, Monsignor Romeo ha detto che quello di Fragalà è un omicidio così efferato stato che appare generato dentro il contesto di un pericolosissimo decadimento civile e morale. Oggi a Palermo è lutto cittadino, gli studi legali sono chiusi in segno di cordoglio e le bandiere sono a mezz'asta in concomitanza proprio con la celebrazione dei funerali di Fragalà, che aveva 61 anni ed era consigliere comunale del PDL, oltre ad essere stato più volte deputato nazionale di AN sul fronte delle indagini per cercare di individuare l'uomo che con un casco integrale in testa ha brutalmente massacrato con una mazza Fragalà. A pochi passi dal Palazzo di Giustizia, gli investigatori seguono varie piste, non solo quella mafiosa. Ed è per questo che proprio ieri sia la vedova che il figlio di Enzo Fragalà hanno lanciato l'appello. Chi sa parli, Palermo ha bisogno di sapere la verità. Gian Piero Casagni, GR24, Il Sole 24 Ore, Palermo. A Ginevra domani il via al Salone dell'Auto, tutte le anticipazioni in diretta con Andrea Malanna. Sì, buongiorno. Domani inizia dunque il Salone di Ginevra dell'Auto con le giornate stampa, giovedì per il pubblico. Il Salone di Ginevra tradizionalmente è uno dei più attesi perché è l'unico che si svolge in un paese neutrale dove non vengono prodotte automobili, cioè la Svizzera, e dovrebbe vedere anche un quasi pienone di costruttori dopo le defezioni per esempio di Francoforte o di Detroit dovute alla crisi. Ovviamente in primo piano saranno tutte le novità, ne elenchiamo solo alcune senza pretesa di completezza, dall'Alfa Romeo Giulietta all'Audi A1, dalle Ford Focus in tutte le versioni all'Opel Meriva, Citroen DS3 e la Mini Countryman, un nuovo crossover. Proprio quella dei crossover e dei SUV è ancora uno dei segmenti dove c'è il maggior numero di novità e i maggiori tentativi da parte delle case di occupare nuove nicchie di mercato. Adesso parliamo di sport. Si è conclusa ieri con l'epica vittoria del Canada contro gli Stati Uniti nell'hockey su ghiaccio, l'Olimpiade invernale di Vancouver, 3-2 ai tempi supplementari. Il Canada corona così un'Olimpiade dominata dai suoi atleti. Nel segno dell'hockey, grande hockey, così il Canada ha chiuso i suoi giochi olimpici vincendo l'ultima medaglia dell'ultima gara, quella più attesa e desiderata, l'oro nell'hockey, 3-2 sugli Stati Uniti al termine di una partita attesissima, seguita da tutto il paese. Il gol partita nei supplementari ha scatenato una festa collettiva che, giurano da queste parti, non si era mai vista. Caroselli e clacson quasi che Vancouver fosse Napoli, l'hockey fosse calcio e la partita fosse una finale Italia-Francia. Poi è stata cerimonia di chiusura. Tra i volti canadesi della festa, oltre a quello di Michael Bublé e del capitano Kirk, quello dell'attore Michael J. Fox, il protagonista di Ritorno al Futuro. È affetto dal Parkinson, ma ha trovato la forza tutta canadese di prendersi in giro. Chapeau. Quanto all'Italia, ha salutato il Canada affidandosi alla sua faccia migliore, quella di Giuliano Razzoli. È stato lui a portare la bandiera nella cerimonia di chiusura. Applausi canadesi, calorosi e sinceri, buon segno. Il clan azzurro ne aveva bisogno. Bravo Razzoli, anche per lui, chapeau. Luciano Clerico, GR24, Il Sole 24 Ore, Vancouver. TV per chiudere, lo abbiamo già detto, il consiglio di amministrazione della RAI ha comunque deciso lo stop ai talk show per un mese fino al voto delle regionali e questa sera l'Infedele di Gad Lerner non andrà in onda. La puntata è stata rinviata per il tema trattato, l'inchiesta sul riciclaggio, e Lerner dice: non sono d'accordo. Lunedì 1 marzo niente Infedele. Laconico, lo annuncia così sul suo blog Gad Lerner. È solo una frase concessa all'ANSA. La decisione di rimandare la puntata è avvenuta con il mio dissenso. La rete ha sostituito con un film la trasmissione prevista per questa sera, una decisione dell'azienda dovuta al tema del programma, l'inchiesta sul riciclaggio con ospiti Nicola Gratteri, Francesco Micheli, Massimo Mucchetti, Cecilia Guerra, Vittorio Malaguti e Ugo Maria Tassinari. Quando si dice un paese senza opposizione, uno pensa non soltanto al Parlamento e alla politica. Il direttore della Sette, Lillo Tombolini, sostiene che all'annullamento della puntata ha contribuito senza dubbio il nuovo regolamento sulla par condicio, ma soprattutto il lavoro in corso dell'autorità giudiziaria. E non c'era tempo, aggiunge, per mettere in piedi una nuova puntata. Sono io. L'Infedele, la TV che lascia un'impronta. E se Lerner decidesse di abbandonare del tutto la rete? Sinceramente spero proprio di no, spiega Tombolini sul suo blog, perché di Lerner ho stima profondissima. Per ora tutto tace, sintomo probabilmente di trattative in corso. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione, grazie regia a Paolo Corleoni. Vi lascio in compagnia di Italia in controluce, il GR torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.